Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E di ritorno in diretta alle 7:46 minuti, siamo a colazione con il Breakfast Club, il popolo del Breakfast Club, che ringrazio per aver dato vivo sostentamento non solamente di partecipazione per la campagna abbonamenti, ma anche per una prima colazione genuina. Ho già, cara Simona, come puoi ben sentire, do anche l'effetto audio in diretta, ho già aperto il vostro regalo da Simone e Andrea, queste raviole buonissime a colazione tutti i tempi, ecco, questo è il termine per cui avete portato una concretezza a un breakfast radiofonico che non è solo radiofonico in questo caso, ma è veramente anche molto nutriente e gustoso. Vi abbraccio, vi auguro buone feste, vi invito ovviamente alla presenza ogni volta che volete, non anche senza regali, questo sembra un po' opportunista da parte di un golosone come me, anche un po' emozionato, però insomma certamente regalo graditissimo e buonissimo, grazie. Abbiamo una condizione economica dove ci stanno prendendo per i fondelli anche in maniera palese, mascherando le realtà principali con altri aspetti che portano dalle prime pagine dei quotidiani come abbiamo appena letto. Oltre alla condizione di lavoratrici e lavoratori che continuano a non vivere, si può dire, in ambito lavorativo, non solo per sicurezza ma anche per quanto riguarda salario, precarietà, problematiche, gender gap, chi più ne ha più ne metta in ambito lavorativo. Nel canale del Mediterraneo si continua a morire, esseri umani che purtroppo scappano da carestia, miseria, guerra e trovano la morte. Ormai il Mediterraneo è diventata un'ecatombe, lo sappiamo bene. Allo stesso tempo la rappresaglia assassina di Israele che sta mietendo vittime, distruggendo, la continua dichiarazione di guerra a una superpotenza che in un mondo come questo piuttosto bisognerebbe collaborare, no? Invece che. E cosa leggiamo noi? Del Pandoro, della Superlega, Supercoppa, non so neanche io come definirla. Il popolo del Breakfast Club, come dice il nostro spot, ha un pensiero critico e mi auguro ovviamente con il Breakfast Club di rappresentarlo, ringraziando ascoltatrici e ascoltatori e non solamente, certo, gradite al massimo per le raviole a colazione, ma anche per la vicinanza e la continuità in questo nostro progetto. Andiamo con Last Minute allora, è un Last Minute di presentazione per i primi appuntamenti 2024, prima a teatro e poi in scena, così avete un'idea dal rientro sui 103.1 per quanto riguarda le due rubriche, una che porta al sipario e il palcoscenico e l'altra a regola d'arte. La stagione teatrale di Crevalcore, sto parlando di una seconda parte, chiamiamola così, dal 18 gennaio al 20 marzo 2024, con dei nomi Massimo Wertmüller, Emilio Solfrizzi, Lella Costa e la curatela, come abbiamo già sentito più volte in diretta in scena, di Alex Carpani, per tre teatri per te. Unico motivo di difficoltà in tre teatri per te sono le troppe R, ma questo è un problema personale per cui cercherò di migliorare questo mio difetto di pronuncia. È il comune di Crevalcore e la stagione teatrale di Crevalcore, l'auditorium Primo Maggio, via Caduti di Via Fani 300, si parte giovedì 18 gennaio alle ore 21, di questo ne daremo un'apertura nella prossima stagione e ho pensato che nel Last Minute, visto che c'è stata un'attenzione per poterlo divulgare attraverso le nostre frequenze, ho voluto in questo modo anticipare il contenuto che ci porta a teatro. L'importanza del teatro in provincia e nella nostra pianura, in una zona di snodo e di confine come Crevalcore, tra Modena, Ferrara e la nostra nostra città è un valore indubbiamente aggiunto. La qualità degli artisti, ne ho citati alcuni, curatela di Alex Carpani, insomma quello che è da non perdere, segnalato sui 103.1 per qualità e per passione. Stagione teatrale di Crevalcore dal 18 gennaio sarà fino al 20 marzo 2024. Di qualità anche il lavoro di Andrea Gozza, non è di Andrea Gozza questo brano, però le puntine che sono state portate ai nostri giradischi sono state invece portate, calibrate, montate dal nostro Andrea. Allora non potevo esimermi, voglia di provarle subito, e questo stacco è dei Coccolo, ce lo ascoltiamo in vinile e sentiamo come vanno queste puntine. Mi sembra molto bene, eh? Pull up, back up. Pull up, pull up, back up. I said now, wind it, come back and pull. Pull up, pull up, back up. I said now, pull up, pull up, back up. Pull up, pull up, back up. I said now, wind it, come back and pull. With the bob and feel, just pull up. With a lick and feel, just pull up. Let me smash and feel, just pull up. Pull up, wind it, come back and pull. Agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. It's a New Day, Coccolo, il brano che abbiamo appena ascoltato dal loro secondo disco omonimo, appunto Coccolo, portato in 33 giri. Non mi piace sempre la definizione vinili, preferisco LP o 33 giri. Grazie alle nuove puntine di Radio Città Fujiko, grazie ad Andrea Gozza per il lavoro minuzioso e preciso di calibrare il braccetto del giradischi del nostro Technics. Beh, direi che la risposta è più che ottima, eh? Continuiamo con il Last Minute. Abbiamo parlato in scena con Crevalcore, Tre Teatri per Te. Passiamo, oppala, eccolo, questa è la mostra che mi terrà compagnia per le festività, una delle mostre. Abbiamo il Museo Civico Medievale a Bologna, è già aperta ma sarà fino al 17 marzo. La curatela è di Massimo Medica e Fabio Massaccesi. Parlo di un artista, Lippo di Dalmasio, tra Bologna e Pistoia, ecco, come territorio. Le arti a Bologna fra 300 e 400. Figlio del pittore Dalmasio e nipote del noto artista Simone dei Crocefissi, Lippo appartenne alla prestigiosa famiglia ghibellina degli Scannabecchi. Come il padre fu a lungo attivo in Toscana, a Pistoia, come vi ho anticipato, è probabile che abbia intrapreso la sua attività ottenendo le prime importanti commissioni proprio dalla città. Tale esperienza dovette comunque incidere sulla sua prima formazione, portandolo poi a svolgere un importante ruolo di raccordo artistico tra i due versanti dell'Appennino. E infatti ho citato nel Tosco Emiliano tra Bologna e Pistoia. Pistoia cittadina stupenda. Ugualmente determinante dovette essere la sua parentela, essi, con un altro grande dell'arte, Simone dei Crocefissi, con cui Lippo condivise, una volta rientrato a Bologna intorno al 1390, l'atteggiamento fortemente conservatore e normalizzante nei confronti dei modi più immaginosi di Vitale da Bologna. Beh, il Rinascimento, scusate, questo periodo appunto che troviamo al Museo Medievale è decisamente importante da sottolineare per la nostra città artisticamente, quindi grazie che ha avuto l'idea di riportare, di sottolineare questo artista Lippo di Dalmasio. Di lui ricordiamo, mi pare intorno al 1420, ecco, poi darò informazioni più precise nella prima puntata della rubrica in mostra nel 2024, la Madonna del Latte, che è di una bellezza, è veramente avanti per quanto riguarda sia l'aspetto tonale che quello di immagine atmosferico. Lippo di Dalmasio al Museo Civico Medievale, probabilmente primo appuntamento in mostra per la prossima annata 2024, sarà fino al 17 marzo e quindi approfittiamone per una visita. Se volete anticipare la rubrica stessa, è consigliatissima, già aperta dal 18 novembre, quindi avremo modo di portarne l'approfondimento nella prima puntata della rubrica in mostra. Musica ci porta alla pubblicità, dopodiché rientriamo in scena. Uno spettacolo rumba, il titolo, il sottotitolo, L'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato di Econ Ascanio Celestini, che ho intercettato per una conversazione telefonica, ed è lo spettacolo che sarà protagonista dal 26 al 28 dicembre al Teatro Arena del Sole di Bologna, ma sarà questa sera, il 22 dicembre 2023 alle 20:30, al Teatro Ermanno Fabbri a Vignola, Modena. A tra poco. And as I stand before you, you look away. Ignore my plea, you choose to stay when you could be so free. I cannot explain. An image of perfection, I've reached my goal. Now I must share desire for life with one for whom I from far away, I've come to guide you through.